Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovate ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. 10 mosse per spendere bene. Da oggi il Sole 24 Ore, anzi oggi il Sole 24 Ore esce con il primo volume della collana Il low cost di qualità sugli acquisti convenienti e sembra una scelta abbastanza inevitabile. Il primo volume è dedicato alla spesa. Sul tema del carrello della spesa negli ultimi mesi si sono spesi fiumi di parole, commenti, da quando cioè il balzo dei prezzi delle materie prime ha comportato un deciso aumento dei prezzi dei generi di largo consumo. Si è posta una grande enfasi sul tema dell'aumento del prezzo del pane e della pasta, ma anche dell'ortofrutta. Si è cercato di fare un esame dei luoghi dove è possibile fare la spesa in maniera sostenibile, come gli hard discount, i mercati rionali, o dei modi attraverso i gruppi d'acquisto con cui si è scoperta la cultura della spesa di qualità. Oltre ai gruppi d'acquisto, per esempio, abbiamo anche spiegato più volte come funzionano e qual è lo spirito delle iniziative dei farmer market. Insomma, il tema del carrello della spesa, come dicevamo, è stato uno dei più battuti recentemente. E adesso che situazione abbiamo? Come sono cambiate, come stanno cambiando le abitudini di spesa delle famiglie italiane anche adesso che la crisi finanziaria rischia di intaccare il nostro risparmio? E questo appunto il tema che in questo momento ovviamente interessa molto di noi. Allora noi oggi ritorniamo sul carrello della spesa cercando di capire intanto quali sono i suggerimenti che possiamo trovare in questo libro che viene pubblicato appunto oggi dal Sole 24 Ore, ma cercheremo anche di capire i suggerimenti come sempre delle associazioni dei consumatori e come si muove soprattutto anche la grande distribuzione. I nostri interlocutori di questa mattina: la collega del Sole 24 Ore Rossella Cadeo, Massimo Viviani, direttore generale di Feder Distribuzione, Marco Bulfon, responsabile del settore indagini e ricerche di mercato di Altro Consumo. Per le vostre domande il numero è sempre lo stesso, è l'800240024, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666, però un'occhiata alla borsa la dobbiamo dare anche questa mattina. Il quadro in Europa è positivo, l'Europa è reduce già da una seduta brillante, quella di venerdì scorso, che ha registrato appunto rialzi fra 3, il 4 e il 5% fra i principali listini europei. Non ha seguito poi venerdì Wall Street questa tendenza, mentre oggi l'Europa riesce ancora una volta ad affrancarsi dagli Stati Uniti, va per conto suo e cerca di consolidare i guadagni di venerdì scorso. Parigi più 1,47, Francoforte più 1,12, Londra più 1,95, Milano più 1,62%, sull'S&P MIB addirittura in apertura non avevamo nessun titolo negativo, a Piazza Affari adesso ne abbiamo qualcuno, abbiamo Parmalat meno 1,7, Fiat in ribasso di un punto, Seat pagine gialle meno 0,29. E qui ci fermiamo, mentre tra i titoli in rialzo più deciso abbiamo Buzioni, CM più 6,29, Telecom più 5,97, Bulgari più 5,81, Prismian più 5%, rialzo di 5 punti anche per Saipem. Speriamo insomma che si vada verso la graduale, non diciamo subito immediata, ma verso la graduale normalizzazione dei mercati, in un mercato appunto che sta facendo grande pulizia di grandi comparti, insomma belle rotazioni anche di portafogli da parte dei gestori di investimento. Insomma, vedremo che cosa succederà. Intanto una buona notizia ancora una volta sul versante dei mutui: i tassi di mercato stanno continuando la loro discesa dopo le misure d'emergenza prese dalla Banca Centrale Europea per allentare la tensione sul mercato interbancario. L'Euribor a 3 mesi oggi è sceso al 5%, dal 5,05 di venerdì scorso. Fanno grande fatica ad abbandonare questa soglia, ma l'obiettivo è proprio quello di portarlo al di sotto della soglia del 5%, di avvicinarlo il più possibile al saggio di riferimento della Banca Centrale Europea, che in questo momento è al 3,75%. Lasciamo i mercati, andiamo subito agli altri mercati, quelli dove tradizionalmente facciamo la nostra spesa. Non stupisce che il pessimismo delle famiglie italiane abbia raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni. La crisi finanziaria si sta ufficialmente tramutando in una crisi dell'economia reale. Il rischio recessione è concreto e nessuno è in grado di dire quanto durerà. Gli italiani si stanno quindi preparando a tirare ulteriormente la cinghia e i consumi, fa sapere Banca Italia, nei primi 6 mesi dell'anno sono calati dello 0,3%. L'unica boccata di ossigeno è arrivata dal rallentamento dell'inflazione. dell'inflazione, in calo a settembre al 3,8% dal 4,1% di luglio e agosto, e dal ribasso del prezzo del petrolio, che dal picco di oltre $147 al barile raggiunto a luglio scorso si aggira ora intorno a quota $70. Sembra inoltre essersi placata per ora la stagione degli scioperi e delle proteste. Dopo le ultime polemiche sui prezzi dell'ortofrutta, del pane e della pasta, anche le associazioni dei consumatori cercano strategie alternative per salvaguardare il potere d'acquisto. Tuttavia, bisogna sottolineare che rispetto al passato, oggi esistono molte più occasioni di risparmio e una spesa oculata può salvare il portafoglio senza troppe rinunce. La diffusione della cultura low cost, la sempre maggiore concorrenza sul mercato e anche la maturità dei consumatori hanno cambiato radicalmente le abitudini di consumo. Così, sapersi orientare nel mondo delle offerte, della distribuzione, delle etichette, significa poter ridurre la spesa senza per forza rinunciare alla qualità. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. È chiaro che, come per tutte le cose, non esiste una strada unica per il risparmio quando si fa una spesa. Molto dipende dall'ampiezza del nucleo familiare, dalle esigenze, dalle entrate anche che il nucleo familiare ha, quindi dai redditi percepiti, dalla disponibilità economica. Però insomma, qualche suggerimento si può dare. Come dicevamo prima, questo è stato un tema molto battuto soprattutto dagli organi di informazione, ma anche dagli organismi direttamente interessati negli ultimi tempi. E allora io, prima di cominciare ad interagire con i nostri ospiti, cerco subito di vivacizzare la nostra trasmissione con i nostri primi due interlocutori, che invece arrivano dall'esterno, dall'800 24 00 24. Antonella da Latina, benvenuta, mi aiuti allora. Grazie, buongiorno. Mi aiuti lei a condurre la trasmissione buongiorno. Stamattina, insomma, il tema della spesa la preoccupa, Antonella? Buongiorno. Fa più fatica, sì, rispetto al passato? Sicuramente sì, perché praticamente noi siamo, allora, in un posto andiamo a prendere una cosa, in un altro posto un'altra, in un altro posto un'altra, quindi non ci troviamo praticamente, pronto? Sì, sì, Antonella, in diretta. Ah, ecco, non ci troviamo, praticamente spendiamo più soldi ad andare a cercare con la macchina queste occasioni di offerte, che in effetti poi tutta la spesa di risparmio. Per esempio, io tante volte ho aperto le mail mandando alla Call Diretti praticamente delle informazioni pratiche su dove io posso accedere, dove sono i punti vendita, praticamente non fare questi vari passaggi di supermercati eccetera. Purtroppo però non sono in grado di dirmi: guarda Antonella, per esempio a Latina c'è questo sito, a Napoli c'è quest'altro, a Roma c'è quest'altro. Non si riesce proprio a far collimare insieme tutte queste situazioni, cioè tutti questi posti. Cioè, se io, quindi insomma, la sintesi qual è, Antonella? Che alla fine è la scelta obbligata, dobbiamo andare per esempio al supermercato. Per forza, perché pure il supermercato, oppure queste, è una brutta parola, diciamo, baracchette che si trovano per la strada, dove questi poverini cercano di arrabattarsi, e veramente hanno delle cose freschissime, hanno delle cose importanti, però magari stanno una a 10 km, una a 15, una a 20, eccetera, eccetera. Dice, vabbè, è un problema vostro, però chiaramente non è più risparmio poi alla fine, se lei capisce perché. Antonella, abbiamo capito perfettamente, la ringrazio molto. Quindi insomma, sicuramente dicevamo, c'è grande interesse, Rossella Cadè, intorno a questo argomento, però non è neanche del tutto peregrina l'osservazione di Antonella. I luoghi del risparmio sicuramente si sono moltiplicati, però non sono molto omogenei in quanto poi a raggiungerli. Questo è un altro aspetto del problema. Sì, assolutamente. Questo aspetto che ha evidenziato l'ascoltatrice è uno degli aspetti da tener presente quando si vuol fare il calcolo della convenienza. Quanto conviene prendere l'automobile per andare a raggiungere quel mercatino oppure quel posto, punto vendita, dove il prodotto viene venduto sfuso, piuttosto che acquistare sotto casa. Uno dei consigli che però mi sento di dare è quello di trattare il proprio budget familiare, il proprio piano di spesa, come se fosse proprio un piano economico, il piano di un'azienda. Capire bene, farsi una sorta di lista della spesa, di quello che può servire all'interno della famiglia, e approfittare almeno di quelle occasioni che ogni tanto sono sotto casa. L'elaborazione, diciamo, di una strategia per la spesa è anche una delle tematiche che affrontate nel volume in edicola con il Sole questa mattina. Sì, noi diamo, appunto, come dicevi tu, Deborah, i luoghi dove dove fare la spesa e dove trovare la convenienza si sono moltiplicati, così come si sono moltiplicate anche le offerte, le formule promozionali. E importante è uscire di casa con una lista della spesa, non farsi una lista della spesa che può essere sia giornaliera sia di più lungo periodo, e non farsi abbagliare magari dalle false promozioni, o perlomeno dalle promozioni che in realtà non fanno al caso nostro. Ma infatti anche perché abbiamo parlato molto recentemente dei nuovi canali dove è possibile per esempio acquistare frutta e verdura di qualità magari di stagione, il tema è capire anche se poi questi nuovi luoghi come i farmer market, che abbiamo spesso descritto anche nelle modalità con cui funzionano e come sono distribuiti sul territorio, e capire se poi qui veramente è il luogo davvero del risparmio, perché in realtà proprio il fatto magari di avere a portata di mano l'ortaggio freschissimo da parte direttamente del produttore non sempre significa poterlo acquistare ad un prezzo molto più basso rispetto a quanto non si riesce ad acquistarlo, dottor Viviani, in un supermercato. Feder Distribuzione, buongiorno. Buongiorno, sicuramente c'è la concorrenza tra supermercati e centri commerciali e gli ipermercati, è quello che fa tenere sempre il prezzo basso, quindi che garantisce le migliori proposte, le migliori offerte per i consumatori. Non solo, il prodotto che si trova nei supermercati e negli ipermercati viene da filiere controllate, quindi c'è una certezza sanitaria del prodotto. A questo punto cosa fanno supermercati e ipermercati? Stanno rivedendo la loro proposta d'offerta, e quando si entra in un punto vendita c'è sempre una scelta tra un prodotto che ha però quattro, diciamo, fasce di prezzo diverso. Troviamo il prodotto di marca, troviamo il prodotto a marchio commerciale, che è quello dell'insegna, che normalmente dovrebbe essere un 20% inferiore, tutto sommato a parità, anzi a totale parità di qualità. Poi abbiamo i prodotti di primo prezzo e poi abbiamo le promozioni. Le promozioni sono un aspetto molto importante, perché si vanno a prendere prodotti che normalmente sono venduti sugli scaffali e sono messi con sconti che vanno dal 10 al 40%. Quindi una famiglia può entrare in un punto vendita e scegliere, che è la cosa più importante. Nei supermercati ci sono 10.000 referenze, nei grandi ipermercati si arriva a 40.000. La cosa importante anche in questo momento di difficoltà economica è di assicurare alle famiglie la possibilità di scegliere di farsi il loro menù, e quindi scegliere che una volta si va su un primo prezzo di un prodotto, ma si va su un prodotto di marca per un'altra categoria merceologica, e uno può variare. Questa è la cosa più importante che assicura oggi la distribuzione, e la concorrenza tra le insegne assicura sempre il prezzo più basso. Dottor Viviani, poi torneremo anche su questi aspetti, ovviamente sulla questione della concorrenza e anche sulle promozioni che avete fatto dal 2 maggio in avanti con un'iniziativa che ha coinvolto tutte le grandi insegne della grande distribuzione. Mi chiedo però, visto che adesso a bocce ferme è possibile fare un bilancio rispetto all'estate che abbiamo attraversato, quando l'inflazione era oltre il 4%, adesso si sta leggermente raffreddando anche se siamo ancora su livelli piuttosto alti, ma adesso ad un'inflazione che scende si è aggiunta anche la preoccupazione finanziaria. Qual è la situazione che voi state osservando dalle vostre casse, per esempio? E non è positiva, nel senso che il consumatore, la famiglia in questo momento non ha certezza del futuro. Tutti questi messaggi, cioè una realtà di fatto di famiglie italiane il cui reddito è fermo a 40.000 euro ormai da 5-6 anni. Quindi questo è un dato assoluto. Secondo aspetto, questa crisi finanziaria che sta spaventando le persone, soprattutto non c'è ancora chiarezza sul futuro, quindi si crea incertezza, e nei momenti di incertezza tutte le persone sui consumi rallentano, stanno più attenti. Quindi diciamo, state registrando solamente delle variazioni in termini di quantità vendute, o anche di qualità? Che cosa vediamo succede? Una diminuzione dello scontrino medio, quindi le persone comprano le stesse quantità ma sono più attenti ai prodotti che stanno scegliendo, e quindi sta diminuendo lo scontrino medio acquistato dalla famiglia. Marco Bulfon, Altro Consumo, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Prima di interagire con lei sentirei anche la considerazione di Sauro da Treviso. Sauro, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Grazie per poter intervenire. Ecco, mi veniva da dire che le variabili in merito al risparmio mi sembra che siano troppe, nel senso che per capire se veramente si risparmiano se bisogna far intervenire diversi fattori, come è stato anche detto prima. Però io inserirei anche delle altre categorie, perché io ho una famiglia, ad esempio siamo in cinque, ad esempio noi ragioniamo sul bisogno reale dei beni, per questo probabilmente diminuisce anche lo scontrino medio. Quindi come si traduce questo aspetto nelle sue scelte, Sauro? Mi faccia capire. la lista della spesa e poi davanti al prodotto domandarsi veramente abbiamo bisogno di due tipi di pane, oppure possiamo scegliere un tipo solo di pane, oppure la varietà del cibo, pur non rinunciando alla verdura, non rinunciando alle proteine o al pesce o alla carne. Ma Sauro, questa è una considerazione che lei fa da sempre, perché per educazione sì, è stato formato, ecco, così, o adesso in qualche maniera la situazione ha cambiato anche la sua attitudine verso la spesa? Proprio dire questo, perché prima così annunciandomi parlavo di cicale e formica, cioè chi in fondo secondo me è stato abituato a fare la formica, continuerà a fare la formica e non si troverà più di tanto a disagio, probabilmente qualche cicala potrebbe trovarsi più a disagio. E anche un'ultima considerazione, il concetto di superfluo credo c'entri, perché se sono diminuite alcune cose vuol dire che probabilmente le famiglie hanno eliminato ciò di cui potevano fare bene senza o spese certo, non necessarie. Questa è una situazione che sicuramente evidenzia anche certi atteggiamenti, non dico di sperpero, che magari in passato erano un po' più facili da poter praticare. Adesso insomma stiamo radicalmente cambiando molte nostre abitudini e molti modi appunto di come dire, approcciarci anche alla spesa. Marco Bulfon, cosa dicono le associazioni dei consumatori sugli aspetti che sono stati rilevati fino a questo momento? Poi parleremo anche della vostra mappa dei punti vendita più convenienti, visto che anche la nostra ascoltatrice di prima, Antonella, diceva insomma io non ho mai qualcuno che mi possa dire effettivamente dove individuare i luoghi del risparmio veri. Sicuramente in questo senso le associazioni dei consumatori aiutano, ci racconterà dopo i risultati dell'ultima edizione, ma insomma rispetto a quanto espresso fino ad ora dai nostri ascoltatori? Dunque, io direi innanzitutto che il fatto che si diversifichino le possibilità di risparmio costituisce di per sé un fatto positivo, perché è, come dire, un elemento, un'aggiunta di concorrenza sul mercato che fa sempre bene. Dopodiché io distinguerei questo tipo di diversificazione. Allora, se parliamo di una diversificazione delle tipologie di punto vendita, allora questa è molto positiva, e cercare di giostrarsi tra i diversi tipi di punti vendita, che si tratti di del mercato locale nel quale si possono acquistare i prodotti freschi, nel punto vendita di grande distribuzione acquisto certi altri prodotti, nell'hard discount ne acquisto degli altri, questo è positivo. Altro invece è andare a caccia delle promozioni. Questa è una cosa che noi solitamente sconsigliamo molto, in quanto solitamente la promozione è anzitutto, come dire, un fatto di comunicazione da parte del punto vendita nei confronti del consumatore. Quindi la promozione di per sé non garantisce un prezzo conveniente, soprattutto non garantisce il prezzo migliore. Ci faccia un esempio, Bulfon, però, per argomentare meglio questa sua teoria. Di quale promozione, per esempio, dobbiamo diffidare? Il 3x2, per esempio, che ne so, io nel supermercato davanti a casa mia non le nego che faccio spesso, approfitto spesso delle promozioni, per esempio quando tutto viene venduto ad un euro, non so, trovo anche il sapone di qualità, il bagnoschiuma di qualità. Qual è, secondo lei, quella della quale dobbiamo diffidare? No, forse mi sono espresso male. Quello che intendevo era questo: non ci sono promozioni di cui diffidare. In genere, mediamente per un prodotto in promozione costa intorno al 20% in meno rispetto al prezzo pieno. Quello che noi solitamente sconsigliamo è di inseguire le promozioni, quindi di andare a fare la spesa in punti vendita diversi nella speranza di acquistare lì un certo prodotto perché è in promozione, di qua un altro prodotto perché è in promozione, di qua un altro prodotto ancora perché è in promozione. Da questo punto di vista noi consigliamo solitamente di scegliere un punto vendita, di individuare il punto vendita che in generale sul complesso della spesa mi offre le condizioni migliori, e eventualmente lì scegliere eventualmente i prodotti che sono in promozione, se consideriamo la promozione interessante, se il prodotto è fresco, sta facendo attenzione certo al fatto che non sia in scadenza. Ecco, però direi soprattutto questo, di scegliere i punti vendita ed eventualmente diversificare sulla tipologia di punto vendita. Questo per ottimizzare ovviamente il risparmio. Poi se uno vuole perdere una giornata di tempo e andare in giro per supermercati a cercare in un'intera giornata tutte le migliori promozioni, naturalmente può fare quello che vuole. Questa è, insomma, la strada indicata dall'Associazione dei Consumatori. Eccoci di nuovo in diretta a Salva Danaio. Questa mattina siamo tornati su un tema che abbiamo frequentato spesso nelle settimane scorse e poi lo abbiamo un po' abbandonato per dar spazio ovviamente alla cronaca e a quanto succedeva sui mercati, ma ci dobbiamo tornare, perché poi quello che accade sui mercati non è che non influisca anche le nostre scelte di ogni giorno quando andiamo a fare la spesa. Allora, cosa sta accadendo? Come si stanno comportando i principali canali di distribuzione degli articoli di largo consumo? Che prezzi troviamo? E soprattutto, la situazione contingente ha modificato le nostre attitudini di spesa? 800 24 00 24 per i vostri interventi. Con noi stamattina Rossella Cadeo, che ha coordinato la prima uscita sul low cost di qualità con il Sole 24 Ore quest'oggi, uscita dedicata proprio alla spesa. E poi Marco Bulfon, responsabile settore indagini e ricerca di mercato di altro consumo, e Massimo Viviani, direttore generale di Feder Distribuzione. Prima di sentire alcuni ascoltatori in attesa, volevo leggere dei messaggi a Rossella Cadeo, perché così li possiamo accontentare anche i nostri amici che ci scrivono al 349-238-6666 lamentandosi del fatto che non parliamo di alcuni aspetti. Per esempio, c'è un ascoltatore che non si firma e dice: avete fatto cadere il cielo per qualche centesimo di aumento su pane e pasta, siete reticenti sul costo della telefonia che rovina le famiglie, che mi dite? Non è... Rossella forse non sta sentendo al... Sì, no, non la... sento... In cuffia. Adesso la sistemiamo, hai sentito la mia domanda, sì, però se riuscite. Sulla telefonia mi pare che interveniate però con la guida di oggi. No, sulla telefonia no. Non è un settore che viene... La telefonia non è un settore che viene considerato dalla guida di oggi, però è un settore... Lo faremo più avanti. Sì, è un settore che è comunque in primo piano nelle spese degli italiani. Si può dire che a fronte di una riduzione del budget destinato alla spesa alimentare, per quello che riguarda la telefonia mobile e fissa, la famiglia non è disposta a contrarre consumi. No, mi ero sbagliata, perché avevo visto in realtà il capitolo sugli elettrodomestici, sul computer low cost e fai da te, quindi immaginavo che ci fosse anche questo settore dentro, ma in ogni caso lo terremo in considerazione più avanti. Invece un'altra ascoltatrice sottolinea, un altro ascoltatore, ecco, per gli alimentari, magari quelli a scadenza lunga, internet non ci può proprio aiutare. Questo invece lo toccate nella guida, perché si parla del fare la spesa anche con il canale internet. Sì, esatto, un capitolo è dedicato proprio alle possibilità di fare la spesa sfruttando questo canale, che è sempre più diffuso nelle case degli italiani, non quanto ancora avviene all'estero, ma abbastanza in crescita. La spesa su internet è uno delle opportunità, uno degli aspetti di questo moltiplicarsi dei canali di vendita. Va anche questa considerata con una certa attenzione. Uno delle cose principali da tenere presente è che la spesa su internet presuppone comunque un costo di spedizione, che in genere si riduce quanto più la spesa sale. E un'altra caratteristica della spesa online è che bisogna essere disposti a pagare con gli strumenti elettronici di pagamento, e quindi con la carta di credito, ed è l'utilizzo della carta di credito attraverso l'online non è così ben diffusa tra gli italiani, non è così tanto accettata. Infatti. Un altro ostacolo per quanto riguarda la spesa alimentare su internet è che potrebbe non essere chiara la data di scadenza del prodotto. Per altri prodotti invece, dai CD piuttosto che altri prodotti di informatica, la spesa online presenta molte possibilità di risparmio e anche una forte differenziazione dell'offerta. Massimo Viviani, Feder Distribuzione, quante insegne della grande distribuzione hanno attivato questo canale per poter fare la spesa? So per certo che lo fa Esselunga, e so anche appunto di questi aspetti che rilevava Rossella Cadeo, che ovviamente ci si risparmia molto in tempo, però poi c'è un onere anche per poter utilizzare questo canale. Sono diverse le insegne che adesso hanno servizio via internet. Diceva giustamente, il risparmio maggiore è il tempo, perché c'è un costo di trasporto che incide. Allora dipende, quando uno va a comprare deve valutare quello che è la sua disponibilità di budget complessiva e poi il costo dell'andare a fare la spesa, il tempo e quant'altro. Se due persone lavorano da lunedì al venerdì e fanno tardi la sera, probabilmente costa meno sul pagare questi costi di trasporto e comprare in internet piuttosto che riuscire ad andare a fare la spesa uscendo prima dal lavoro. Può questo servire anche, per esempio, anche per i prodotti pesanti, la cassa dell'acqua piuttosto che i altre cose. Le cose a lunga scadenza. Questo è il tempo, perché il tempo è la variabile più importante oggi. Se potessimo, ad esempio, in questo momento le regioni non ci consentono di tenere aperte sempre tutte le domeniche, che sarebbe un'altra valvola di sfogo che potrebbe consentire di andare a fare la spesa con più calma. Quindi internet deve essere valutata in questo modo, perché se no, se è solo un discorso di trasporto di pacchi pesanti, tanti punti vendita ormai fanno il trasporto a casa. Quindi si può andare, si fa la spesa, dopodiché si chiede che la spesa venga trasportata a casa. Questo per andare incontro alle persone che possono avere delle difficoltà a portare i pesi. Diversi supermercati ormai lo fanno. Infatti, 800 24 00 24. Allora sentiamo Enrico da Pesaro che aspetta da un po'. Enrico, benvenuto. Enrico, dov'è finito? Niente, si è stancato, adesso lo recuperiamo. Salvatore da Napoli, buongiorno. Buongiorno signora, io sono 80 anni, per causa di forza maggiore, per la disperazione di una pensione di 1000 euro, sono costretto a fare dei programmi di spesa. E volevo suggerire quello che io ho escogitato, perché è un budget molto limitato. Certo. Quindi voglio dire, programmo la spesa per un menù settimanale. E allora questo mi porta a una spesa più o meno costante nell'arco di un anno. Quindi lei fa un check-up molto attento, insomma, di quelle che sono le sue esigenze, magari dice il lunedì prevedo di mangiare questo, il mercoledì quest'altro, ecco. Esattamente, perlomeno per una settimana. Allora un chilo di carne macinata ti può bastare per 3 volte, diciamo, che siamo in 2, io e il mio badante. Passa mattina e sera, un brodino la sera e passa al sugo il pomeriggio. Legumi, carote, zucchini per contorni, patate, cioè cose economiche ma allo stesso tempo nutrienti. Salvatore, lei sicuramente ci può dare una testimonianza diretta di come sia cambiato il costo della vita nel nostro paese. Lei prende 1000 euro di pensione, che sarà la stessa cifra che prendeva per esempio un anno fa. Esatto, ecco. Comprensiva di accompagnamento. Eccoci qua. Fa più difficoltà fare la spesa rispetto ad un anno fa. Che cosa ha dovuto rinunciare? Io che mi scrivo tutto ciò che spendo, perché, ripeto, cause di forza maggiore, controllo quello che ho speso qualche anno fa e purtroppo c'è un aumento perlomeno di un 25-30% sulla spesa alimentare, parliamo solo di alimentare, detersivi, cose per la casa. E quindi lei delle promozioni non si lascia attirare? Ma non molto. Non le interessa? No, interessano fino a un certo punto, perché mi sembra che siano poi prodotti anche di seconda mano, insomma, effettivamente mangiare sì poco, ma perlomeno bene, questa è una caratteristica. Salvatore, ha ragione, condivido pienamente lo spirito anche ovviamente con cui affronta questo momento di sacrificio, perché insomma non c'è bisogno che io commenti come si possa vivere con 1000 euro di pensione. Oltretutto Salvatore deve farsi aiutare anche da una persona in casa. Enrico da Pesaro l'abbiamo recuperato perché voleva esprimerci delle cose sulla questione delle promozioni che ci interessano. Enrico, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno, mi sente? La sentiamo benissimo, ecco. Però lei deve abbassare la radio. No, io ce l'ho spenta. Eccoci qua, sento un eco. Grazie di avermi richiamato. Sì, volevo intervenire, dire la mia, insomma, sulle promozioni, in quanto secondo me molto spesso non sono indice di qualità. E quando si pensa di comprare appunto un prodotto alimentare diciamo a buon prezzo, ecco che invece una volta aperto il gusto non è quello, oppure non so, posso portare degli esempi? Sì, ce ne faccia un paio, Enrico, così magari riusciamo a far anche rispondere ai nostri ospiti. Poco tempo fa, 3-4 giorni fa, ho aperto un formaggio chiaramente di marca in promozione ed era molto salato. Ieri mia moglie ha comprato un pacco di biscotti di marca al 20% di sconto e erano bruciati. Ah, vabbè. Diciamo, non da buttare via, però non del colore. Beh, io non credo che però magari chi li mette in promozione vada a guardare all'interno delle confezioni per verificare se siano più o meno in qualità che si sta deteriorando. Enrico, comunque io naturalmente prendo atto della sua diretta esperienza e giro subito la palla al balzo a Vianini di Feder, la palla al balzo prendo la palla al balzo e la giro a Massimo Viviani di Feder Distribuzione. Davvero, insomma, le promozioni vengono fatte proprio per venire incontro al cliente, o qualche volta insomma si mette anche sul bancone ad offerta speciale qualcosa magari che non va perché insomma la qualità non è proprio eccellente? No, quello che non va nelle rimanenze. Quindi c'è un 3-4 per mille dei prodotti che girano nella grande distribuzione che vanno nelle rimanenze perché arrivano vicino alla data di scadenza, c'è la confezione rovinata, quant'altro, non vengono assolutamente messi in vendita e non tornano nel circuito. I prodotti in promozione sono gli stessi che si trovano sugli scaffali. Semplicemente hanno un vantaggio di acquisto di prezzo che va dal 10 al 40%. Quindi la qualità dei prodotti in promozione è assolutamente la stessa di quello che si trova sullo scaffale. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Stavamo considerando con i nostri ospiti a microfoni spenti che questo è un tema talmente vasto che veramente ogni domanda e ogni considerazione che arriva da parte degli ascoltatori apre una parentesi diversa che sarebbe interessante analizzare, ma insomma noi stiamo cercando in realtà di monitorare molto banalmente come sono cambiate le vostre attitudini alla spesa e quali sono i canali di risparmio che cercate. Valentina dice: ho scoperto i detersivi alla spina, ne abbiamo parlato, questo tra l'altro è un veicolo molto poco praticato in Italia, si trova magari solo in alcuni paesi, riguarda anche altri prodotti. Un altro ascoltatore dice: confronti i volantini promozionali, scelgo il punto vendita. E un altro ascoltatore ancora, Marco da Brescia: vorrei sottolineare i costi inutili degli imballi, perché non utilizzare le bottiglie di plastica. Sulla questione degli imballi è interessante, perché credo anche Viviani Feder Distribuzione che il fatto di non essere molto attenti anche a posizionare in maniera bellissima sugli scaffali i prodotti sia la filosofia per esempio degli hard discount, e anche lì un canale di risparmio notevole. Non c'è dubbio, lì l'utilizzo dell'imballo è minimo, per cui si va a risparmiare in tutto quello che è l'allestimento del punto vendita e il prodotto stesso. Sono prodotti che però si ritrovano nell'hard discount, come anche nei supermercati e negli ipermercati, sotto la voce primo prezzo. Quindi in questo senso si è livellato il prezzo di prima fascia. Parlavamo prima delle promozioni, se posso. Esatto, l'avevo lasciata lì, adesso mi ero anche dimenticata che dovevamo toccare questo argomento. Insomma, con che criterio si fa la promozione? Allora, il criterio è nel mettere a disposizione delle famiglie quello di cui hanno bisogno. Un'iniziativa che ha fatto Feder Distribuzione e aziende associate è iniziata a maggio, finisce a dicembre, e c'è un paniere di 15 prodotti che sono i prodotti di base per negli acquisti delle famiglie: la pasta, il pomodoro, il latte, il riso, che sono sempre in promozione. Quindi quando si va in un supermercato, in un centro commerciale, si vanno a vedere le promozioni, si trovano sempre questi 15 prodotti che consentono di fare la spesa minima di sopravvivenza, e sono prodotti di qualità. Normalmente e spesso le promozioni poi sono fatte anche insieme all'industria, e quindi c'è un contributo loro per intervenire a favore della famiglia consumatrice. Sentirò Paolo da Macerata per poi legarmi subito a Burfon, ad Altro Consumo. Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei approfitta delle promozioni? Dunque, guardi, io dicevo prima al signor Centralino che sì, ne approfitto, ma in un certo modo, nel senso, cioè a me mi piace fare le cose senza farmi portare né dalla pubblicità né dalla marca, cioè queste cose a me non mi interessano proprio, nel senso. Prima di tutto io guardo molto le etichette per capire che cosa c'è dentro i prodotti, che ho fatto caso che anche al di là del fatto che sia di marca o non di marca, spesso ci sono tante di quelle schifezze dentro i prodotti, per cui prima di tutto è questa la prima cosa che io guardo, a parità di costo scelgo quello che c'è, prodotti meno conservanti, meno coloranti, che sia più naturale possibile. Vabbè, insomma, lei quindi ha proprio una filosofia all'insegna della qualità per quello che riguarda i suoi acquisti, sì, che sì, poi sì. È una cosa un po' diversa anche da quelli, però cerca di mettere insieme tutti e due aspetti. Certo, poi per quanto riguarda il discorso del risparmio, quando vedo che ci sono delle promozioni, e tanto ormai nei supermercati, che io faccio spesa nel supermercato che ho vicino a casa, ci sono sempre a giro, quando vedo insomma che sono convenienti, perché spesso sa cosa succede, anche che magari ho notato che vengono messe in produzione cose che costano molto e che magari rimangono sugli scaffali, per cui nonostante che sono in produzione costano ancora di più rispetto a qualcos'altro che più o meno ha la stessa qualità, che però magari non è di marca. Quando però queste cose convengono faccio scorta. Io per esempio non so, pastiglie per la lavastoviglie sono 4 anni che non ne compro più, perché l'ultima volta che c'è stata un'offerta del 40% l'ho comprato, non c'è problema. Prosciutto di Parma io lo pago il 50% di quello che costa, che lo prendo intero. Quando c'è l'offerta, mi sono attrezzato con un'affettatrice e tranquillamente li prendo interi, li pago molto meno, ce l'ho sempre fresco quando l'ho fetto. Cioè, noi, Paolo, la ringrazio. No, non voglio essere maleducata, ho un altro paio di ascoltatori e purtroppo fra 3 minuti dobbiamo chiudere. Marco Bulfon, però per esempio anche nel vostro vademecum guida ai supermercati più economici che avete pubblicato di recente, non è proprio detto che poi l'acquisto della grande quantità sia la scelta più conveniente, no? Bisogna vedere anche qual è la scadenza poi del prodotto, perché è inutile che ci compriamo 5 chili di riso, se ce ne mangiamo tutti in un mese va bene, se ce lo mangiamo tutti in un mese, ma poi insomma lo lasciamo anche rovinare lì inutilmente, si corre questo rischio almeno. Sì, sì, questo sicuramente, ma infatti c'era un ascoltatore, se non ricordo male, di Napoli prima, che citava proprio il fatto che lui si faceva una pianificazione nell'arco della settimana per valutare quali erano i suoi menù e di fare gli acquisti ponderandoli in base alle proprie effettive esigenze. Sì, naturalmente il fatto di fare delle scorte può avere una sua utilità, soprattutto quando si acquistano prodotti non deperibili o con una deperibilità prolungata, molto diversa naturalmente in caso dei prodotti freschi. Io però ci terrei a sottolineare soprattutto questo aspetto, cioè io mi auguro che sempre di più gli italiani si abituino a pensare che se un prodotto ha un prezzo basso non necessariamente ha una qualità bassa. Questa è una cosa che ho sentito in qualche modo come un presupposto di molte telefonate. In verità molto spesso quando Altroconsumo fa dei test comparativi, cioè confronta prodotti di marche diverse, prodotti naturalmente più o meno come dire confrontabili, spesso anche nei prodotti alimentari emerge come tra i migliori un prodotto che è una marca a primo prezzo o una marca commerciale o addirittura una marca hard discount. Quindi noi consigliamo sempre di provare i prodotti e di non scartarli solo perché hanno un prezzo che apparentemente è, tra virgolette, troppo conveniente. Bulfon, tra l'altro questo è un aspetto che noi abbiamo toccato anche in un'altra puntata proprio organizzata con lei, nella quale abbiamo fatto la prova sul campo per la pasta a primo prezzo. Poi è chiaro che c'è il gusto personale, che è un aspetto dal quale non si può prescindere. In ogni caso vale la pena appunto sottolineare che molto spesso il primo prezzo non corrisponde a qualità inferiore rispetto ai prodotti di marca più conosciuta. Allora, noi purtroppo dobbiamo terminare qua a Salvadanaio questa mattina dedicato a questo argomento. Devo farvi sentire però un'altra cosa, perché oltre alla guida per spendere meglio la spesa oggi con Il Sole 24 Ore, da sabato in edicola con Il Sole anche la guida La Grande Crisi, domande e risposte. Da oggi vi proponiamo delle pillole contenenti le parole chiave per capire questa crisi e per definirla. Oggi iniziamo con forse la parola più rappresentativa, subprime. Subprime sono prestiti immobiliari statunitensi, cioè mutui, concessi a soggetti a rischio, come un debitore che è già stato insolvente o che non dà alcuna documentazione circa i suoi redditi o il suo patrimonio. Alcune società specializzate gli concedono una seconda chance, assumendosi il rischio di non essere rimborsate dietro il pagamento di tassi di interesse sensibilmente più alti e di commissioni e dimore elevate. I subprime sono usati principalmente in due modalità, mutui o carte di credito. Per difendersi dal rischio di insolvenza, l'industria del credito subprime ha cartolarizzato il debito, emettendo obbligazioni ad alto rendimento che sono state acquistate da molti investitori istituzionali, anche all'estero. Il rischio è stato così passato ad altri, ma è rimasto nel sistema. Allora, Salvadanaio di oggi termina qui. Mi dispiace non riuscire a far intervenire Yolanda da Napoli, che ci voleva dire che ci vuole una laurea in economia per fare la spesa. Fare la spesa è un'arte, conviene girare in più punti vendita e guardarsi intorno. Allora, su questa laurea sicuramente avremo modo di tornare anche nei prossimi mesi. Grazie a Marco Bulfon di Altroconsumo, Viviani, Federdistribuzione, 10 secondi. Replicherete dopo dicembre l'iniziativa Blocca Prezzi, che mi sembra quanto mai utile ancora, visto che la crisi finanziaria non sembra destinata ad attenuarsi nel breve periodo. Faremo sicuramente qualcosa. qualcosa per le famiglie italiane e se riusciremo magari l'anticiperemo anche un po' prima di Natale. Rossella Cadeo, la prossima guida low cost del Sole lunedì prossimo? Sì, è dedicata a un argomento scottante, il risparmio, cioè le migliori scelte in tema di banche e di assicurazioni. E allora noi cavalcheremo anche questo cavallo molto volentieri. Grazie a Rossella Cadeo, grazie a Gaia Romani e Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè questa mattina in assistenza tecnica. Noi torniamo domani a Salvadanaio e parleremo di quell'altro focolaio di crisi che potrebbe aprirsi presto negli Stati Uniti, ricadute anche in Italia, le carte di credito. Buona giornata.